Buonasera cari amici della radio e benvenuti alla prima puntata del 2009 di Più di Mille Immagini, il programma della Scuola Ufficiale di Lingue di Albafete. Canda Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte. Qui si apre una finestra sull'Italia. Io cammino sbariando. Affacciatevi e restate accanto a noi. Mai suono, non chiudo mai l'occhio e non bevo caffè. Speriamo di contare sulla vostra presenza e di tenervi compagnia per i prossimi minuti. Una persiana che sbatte, un lampione che luce, e un ubriaca che dice bussanna una porta marava non c'è. Il nuovo anno è appena iniziato ed è già tempo di saldi. Siete ormai andati a fare un giro nei negozi? Attenzione però a non essere truffati. Pigliate una pastiglia, pigliate una pastiglia, sienta a me. Tre nostri compagni si sono informati sull'argomento e vogliono darci qualche semplice consiglio per evitare fregature di fine stagione. Vi lasciamo insieme a loro. Buon ascolto. Mi fa sentì come un gran pascià e mi nebbra il cuore in de vetrine tutti i farmacisti. La vecchia camomilla ha dato il posto alle palline glicero fosfato e bromo televisionato grammi 003. Piglia della pastiglia, sienta a me. Saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i saldi! Saldi, saldi. L'arrivo dei saldi di fine stagione e il desiderio di approfittare delle occasioni non deve far dimenticare alcune fondamentali regole per tutelarsi dalle fregature che non di rado possono presentarsi. Eccoci alcuni consigli da seguire in tempo di saldi. Convenienza. Comprate preferibilmente nei negozi abituali. Sarà più facile accertare la convenienza dell'acquisto. Confronto. È buona abitudine confrontare i prezzi tra vari esercizi commerciali prima di decidere l'acquisto. Prezzi chiari. Occhio al cartellino. Il negoziante ha l'obbligo di esporre sul taloncino il prezzo pieno, il prezzo scontato e la percentuale di sconto praticata. 2 anni di garanzia. Conservate lo scontrino che dovrà essere esibito in caso di restituzione di capi difettosi. Anche se eventuali cartelli dichiarassero che i capi non possono essere sostituiti, il venditore non può sottrarsi all'obbligo di sostituzione o riparazione della merce. Etichette e prodotti. Controllate che l'etichetta contenga la composizione del capo e le istruzioni per il lavaggio e la manutenzione, perché da questo potrebbe dipendere la diversità dei prezzi. Prodotti in vendita. La merce in saldo deve essere tenuta fisicamente separata da quella in vendita a prezzo pieno. Modalità di pagamento. I negozianti sono obbligati a accettare il pagamento con carte di credito o bancomat, anche in periodo di saldi. In caso di rifiuto, consigliamo di segnalare il caso per iscritto alla società servizi interbancari. Prova dei capi. Provate per credere. Il consumatore ha diritto di provare i capi. Percentuale saldi. Diffidate dai saldi superiori al 50%. Potrebbe trattarsi di prodotti scadenti o anche di merce dell'anno precedente. In quest'ultimo caso si potrebbe trattare ugualmente di un buon affare purché il negoziante ne informi il cliente. Segnalazione. Ogni disfunzione o scorrettezza può essere segnalata al locale comando dei vigili urbani o all'ufficio comunale per il commercio. Con tutti questi consigli eviteremo le fregature in periodo di saldi. Basta fare un po' d'attenzione incrociando le dita perché tutto vada per il verso giusto. A proposito di incrociare le dita, sapete che questo è un gesto scaramantico usato per portare fortuna? A quanto pare, l'Italia detiene il primato per il maggior numero di superstizioni e soprattutto di gente che, con il passare degli anni, continua a crederci. In seguito vediamo alcune delle superstizioni più famose in Italia. Tocchiamo ferro. La superstizione nella civiltà contadina era una forma di interpretazione magica della realtà che valutava eventi, azioni o fenomeni come rilevanti ed efficaci a modificare negativamente o positivamente il destino. Guarda nei miei occhi! Come tutti sapete, l'Italia è un paese con una grande storia, ricca di tradizioni e credenze popolari che si intrecciano con la storia stessa. C'è da dire che l'Italia è un paese di superstizione per eccellenza. Guai a passare sotto una scala, rompere un vetro o incontrare un gatto nero. Ci sono però tanti tipi di superstizioni, quelle di matrice religiosa, come il divieto di mangiare mele il giorno di Natale perché ricorderebbero il pomo della discordia. Oppure il ritenere che portino male le posate incrociate sul piatto, in quanto sembrano rievocare la crocifissione di Gesù. O ancora che sia maleaugurante il sedere a tavola in 13, perché rievoca l'ultima cena. Infine, non si dovrebbero invitare ospiti a pranzo o a cena di venerdì, giorno nefasto perché coincide con quello della morte di Cristo. Accanto a queste superstizioni di finta derivazione religiosa, ci sono quelle definite superstizione di magia simpatica, ovvero derivate dalle convinzioni e dall'inventiva popolare senza nessuna apparente matrice. Essendo gli italiani dei gran mangioni, non mancano le superstizioni legate al cibo. Tra le più note c'è quella di credere di impazzire se si mangia la testa dell'oca, e quella secondo la quale porta male capovolgere il pane sul tavolo, perché ricorderebbe quello destinato al boia, che veniva capovolto dai panettiere perché venisse riconosciuto e quindi non toccato. Da ragioni di ordine pratico hanno invece origine altre superstizioni che riguardano l'uso, l'abuso e la conservazione di alcuni alimenti considerati preziosi. La più comune, quella che tutti conoscono e rigorosamente rispettano, è quella legata al sale. Rovesciare il sale sulla tavola, soprattutto di martedì, porta male e per scongiurare questa azione maleaugurante non c'è altro modo che gettarsi un pizzico di sale dietro le spalle. Altra credenza diffusa era quella di non passare mai la saliera tenendola in aria, bensì posandola sul tavolo. Ognuno poi la prenderà con la sua mano. Infine, per chiudere in bellezza, parliamo del vino. Rovesciare il vino porterebbe bene, per cui ciascuno dei commensali deve provvedere a intingervi il dito per bagnarsi nella nuca ed essere quindi partecipi di un immancabile fortuna. Noi, per scaramanzia, vi abbiamo raccontato queste cose, non si sa mai. Io so che lo sai, è una stanza vuota, io mi fiderei. Bravo, puoi capire cose che non vuoi. Se è tuo guaritore, se nel tuo mondo dammi tre parole. Sole, cuore, amore, dammi un bacio che non fa parlare. È l'amore che ti vuole. Stavolta non farlo scappare. che vuoi. Sai, ne è pieno il mondo di mali come i tuoi. Slacciati la faccia, arrabbia gatto che gioca con la buccia e gira in tondo. Dammi tre parole, sole, cuore, amore. Dammi un bacio che non fa parlare. È l'amore che ti vuole prendere o lasciare. Stavolta non farlo scappare. Sono le istruzioni per muovere le mani. Non siamo mai così vicini. Ci sei te, a volte solo un velo, un giorno un fulmine. Sei dato, dato, dato, avuto, avuto, avrai. Oggi ha già piovuto, dove sei? Dove sei? Dove sei? Dammi tre parole, sole, cuore, amore. Dammi un bacio che non fa parlare. È l'amore che ti vuole. La canzone che abbiamo appena sentito, Dammi tre parole, di Valeria Rossi, serve ad introdurre l'ultima proposta del programma di oggi, Tre parole. Vorremmo contare sulla vostra collaborazione. Ci piacerebbe sapere quali sono le parole della lingua italiana che amate di più. Scrivete una mail a maschemilimagenes@yahoo.es, indicando le tre parole italiane che preferite. A quanto pare, questa stessa domanda è stata posta agli italiani e sapete quali sono stati i risultati? La loro parola prediletta è amore, seguono mamma e libertà. In attesa dei vostri suggerimenti, prendiamo in considerazione una delle tre parole richieste da Valeria Rossi. Cuore. Ecco alcuni modi di dire in cui viene usata questa parola. Mio cuore, tu stai soffrendo. Cosa posso fare per te? Mi sono innamorata. Per te pace, no, no, non c'è. Il cuore è stato scelto sede dei sentimenti, delle emozioni e delle facoltà affettive in contrapposizione al cervello che rappresenta il pensiero e l'intelligenza. Un tempo nel cuore si ponevano anche il valore in battaglia e il coraggio in generale. In seguito vi parleremo di alcuni modi di dire che hanno a che fare con la parola cuore. Si può agire a cuor leggero, senza preoccuparsi, serenamente o anche sconsideratamente con leggerezza. Se si parla a cuore aperto, è come se si aprisse il cuore ad ascoltatore per permettergli di leggerne i segreti. Quindi si parla sinceramente, senza nascondere nulla. In questi casi si può anche dire che si ha il cuore sulle labbra. Si può avere il cuore libero se non si è innamorati di nessuno, pesante, se si è amareggiati o addolorati, stretto, in preda all'ansia, l'angoscia, oppure spezzato, se si soffre un grande dolore. Una persona pavida, timorosa di tutto, è un cuore di coniglio. Invece di una persona coraggiosa, si dice che sia un cuore di leone. Se si ha il cuore d'oro, si è buoni e generosi, cioè si è di buon cuore, oppure tutto cuore. Chi invece ha il cuore di ghiaccio è insensibile e privo di sentimenti. Chi ha il cuore di pietra è spietato, privo di umanità. Si suol dire due cuori e una capanna, in allusione a un amore di coppia molto sentito, indipendente dal benessere materiale. Quando si prova un grande dispiacere, ci si sente piangere il cuore. Infine, si dice, cuor contento il ciel ti aiuta. Di origine proverbiale, il detto ricorda che cercando di vedere i lati migliori di una situazione, è più facile risolverla. Cioè, chi affronta la vita con ottimismo, vive meglio di chi si dispera. Beh, anche se ci state molto a cuore, il nostro tempo a disposizione è scaduto e dobbiamo salutarvi. Non mancate però al nostro appuntamento il 26 febbraio, sempre su Radio Cincilla. Inoltre, vi ricordiamo che dalla prossima settimana potrete riascoltarci visitando il sito della nostra scuola www.eoialbafete.net. Buon proseguimento di serata. Ciao!